prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Questa settimana il nostro viaggio nel mondo della Caritas padovana interrompe il suo percorso alla conoscenza dei centri di ascolto vicariali della povertà e delle risorse. Torniamo anche in questo spazio sulla tragedia dei profughi della notte tra sabato e domenica. Circa 700 persone, uomini, donne e bambini in fuga col solo desiderio di trovare vita e speranza. Sono le prime parole dell'intervento di Don Luca Facco, direttore della Caritas diocesana di Padova. È importante, dice Don Luca, provare a dar voce a qualche parola per continuare a riflettere alla luce di questa ennesima tragedia. Tre pensieri. Il primo, dar voce al dolore, alla sofferenza che proviamo di fronte a questa notizia, a queste immagini. Proviamo tutti rabbia, indignazione, dolore a pensare che queste persone, per salvarsi dalla guerra, dalla fame, dalla tirannia, sono costrette a morire in questi viaggi di disperazione, speranza. È in atto un terremoto politico in moltissimi paesi ed è naturale che queste persone scappino verso situazioni migliori. Chi di noi non cercherebbe una situazione migliore per se stesso e per la propria famiglia se si trovasse nelle stesse condizioni? Seconda riflessione. È evidente che siamo di fronte a un fenomeno drammatico, dalle proporzioni impressionanti, con numeri e cifre che non riusciamo nemmeno a immaginare. È necessario a questo punto, sempre più, che si innalzi un grido da tutti i cittadini italiani ed europei affinché intervenga l'Europa e l'ONU, decisioni che vengono prese proprio in queste ore, in queste giornate. Solo se tutta l'opinione pubblica è compatta e unita a pretendere un intervento umanitario, c'è la speranza di riuscire a smuovere i governi nazionali per superare gli inevitabili egoismi e affrontare questa situazione. Se c'è una forte opinione pubblica, dice Don Luca, si riesce a smuovere le coscienze dei governi. Se c'è una forte e motivata opinione pubblica, i governi sono costretti a cercare insieme soluzioni e risposte. L'intelligenza delle persone più esperte riuscirà a individuare le vie più adatte e possibili. In questi giorni si è parlato di allestire campi profughi nei paesi confinanti, predisporre un visto, un cordone umanitario per l'ingresso legale in Europa, in cordone navale per evitare che nella disperazione queste persone si buttino in mare, favorendo così la mafia degli scafisti. Terza riflessione per le persone che sono già arrivate vive in Italia. Non possiamo non favorire un'accoglienza dignitosa e umana affinché abbiano la possibilità di fare la richiesta di asilo politico come prevedono gli accordi internazionali. Tutti, ora e subito, a qualsiasi livello, siamo chiamati a collaborare per affrontare questa situazione. Stato, regioni, prefetture, comuni, associazioni, cooperative, parrocchie. Nessuno può e deve dire io non posso, non riesco. Tutti insieme siamo capaci e possiamo. Favorire le microaccoglienze, massimo 5-6 persone, diffuse sul territorio, in modo da innescare fin da subito una reale e fattiva integrazione e accoglienza, inserendo queste persone nel tessuto locale attraverso corsi di italiano, esperienze di volontariato e servizio, work experience, cioè esperienze di lavoro, lavori di pubblica utilità e conoscenza del nostro ambiente, delle nostre regole, delle nostre abitudini. L'esperienza di molte microaccoglienze presso alcune parrocchie della diocesi di Padova, in sinergia con le cooperative sociali e i comuni, dimostra che è possibile, che non crea paura e allarme sociale. Gli operatori delle cooperative offrono un sostegno e accompagnamento professionale. I volontari della Caritas favoriscono percorsi di integrazione attraverso esperienze di amicizia e relazione, ad esempio insegnare a farsi da mangiare, qualche passeggiata, qualche partita di calcio, incontri di scambio con i giovani del territorio, accompagnamento a conoscere i servizi del territorio. Infine, Don Luca Facco, direttore di Caritas Padova, fa due appelli ai candidati alle prossime elezioni. Evitate di trasformare questo tema così complesso e delicato in campagna elettorale, dove spesso si è costretti a semplificare e a ridurre. Fate una moratoria affinché non si ostacoli e si mettano i bastoni fra le ruote a chi cerca di impegnarsi e collaborare. Un appello al mondo dell'informazione, cercare di dar voce anche alle tante esperienze di accoglienze riuscite. L'informazione ha un grande potere di formare la pubblica opinione. Con l'augurio e la speranza che di questi temi si possa parlare in maniera civile, costruttiva e razionale. Temi difficili e complessi, dice ancora Don Luca. Non ci sono soluzioni o ricette facili, ma insieme, come comunità a tutti i livelli, possiamo e siamo in grado di stare e affrontare questa situazione. Raccogliamo proprio l'appello di Don Luca riprendendo quanto già questa mattina dicevo in corso di rassegna stampa regionale. Spesso, ovviamente per brevità, i titoli dei giornali usano la parola clamorosa anche per attirare l'attenzione, e allora la parola emergenza e la parola invasione anche oggi dai quotidiani delle province del Veneto erano le parole più presenti. Torniamo ai numeri, parliamo di invasione. Ci sono attualmente presenti in Veneto 2.400 migranti. 2.400 su 5 milioni di abitanti del Veneto. È invasione questa? Probabilmente no. È vero che in totale tra il 2014 e questi primi mesi del 2015 ne sono passati di più, 7.400. 5.000 se ne sono già andati, e quindi, a maggior ragione, è invasione questa? È allarme? Probabilmente no. E allora, le storie positive raccolte anche dal mondo della Caritas, storie positive di immigrazione che diventano invisibili. Raccontiamo quello che è stato appunto condiviso anche già dalla Caritas di Padova tramite il suo sito caritaspadova.it. 6 giovani profughi richiedenti asilo ci stanno mettendo impegno per conoscere la nostra cultura, apprenderla e fare i propri ritmi e le regole di un mondo altro, mondo diverso da quello da cui provengono, mossi da una grande speranza di futuro diverso e di una vita migliore per loro e per le loro famiglie. La casa che ospita questi 6 giovani è l'ex casa delle suore davanti al Duomo di Santa Tecla di Este, una casa di cui si stanno prendendo quotidianamente cura con il riordino, la pulizia, e alla quale anche si sono affezionati. Nel viverla capiscono che il rispetto della casa in cui si vive equivale al rispetto di se stessi. Questi giovani hanno tra i 18 e i 35 anni, vengono da Gambia, Senegal e Pakistan. La loro presenza è un'opportunità, un'occasione preziosa per rileggere e riscrivere anche la nostra storia. L'accoglienza procede positivamente, racconta uno dei volontari della Caritas di Este. Col passare del tempo i giovani profughi stanno diventando sempre più autonomi e incuriositi da tutto ciò che li circonda. Hanno desiderio di imparare, capire, apprendere, rendersi utili e socializzare. La loro capacità di espressione e comprensione della lingua italiana sta velocemente migliorando. Di conseguenza vengono anche meglio conosciuti dalle persone che incontrano. Le iniziative pensate per loro stanno continuando nel tempo, in modo naturale si sono articolate e sviluppate in base alle loro esigenze, attitudini e inclinazioni. Ogni persona, in qualunque parte del mondo si trovi e viva, ha bisogno di uno spazio familiare in cui si coltivi un'iniziativa, in cui si prenda cura dei bisogni e della creatività. In una prima fase è stato necessario concentrarsi sull'imparare la lingua e anche su alcuni concetti fondamentali di base, nozioni igienico-sanitarie, come orientarsi nel territorio, le regole di convivenza, la gestione dei rifiuti, le regole condominiali, l'educazione civica, l'educazione alimentare, cose che noi diamo per scontate ma che così scontate non sono per chi arriva da altre culture e da altri paesi. Questo li ha resi, questi 6 giovani, molto più autonomi. È un cantiere aperto questo, ma che sta vivendo in modo positivo la comunità. Tutti partecipano, questi 6 giovani profughi richiedenti asilo, all'attività di volontariato del Banco Alimentare organizzata in ambito parrocchiale. 2 fanno parte della polisportiva del patronato Santissimo Redentore, altri 2 hanno iniziato a frequentare un'associazione culturale in affiancamento all'insegnante durante un laboratorio per la libera espressione della creatività. E poi ci sono proposte di gite, di feste, di pranzi, di concerti. Si chiamano Adama, Usman, Boubacar, Alice, Adam e Murslen. Stanno dimostrando una grande forza d'animo e determinazione nel perseguire gli obiettivi di inserimento. Allo stesso tempo hanno trasmesso anche alle persone della comunità nuove prospettive, nuove speranze e nuove forze. 6 appunto giovani ospitati in una micro accoglienza nella comunità estense. E se tutte le comunità, tutti i comuni, quasi 600 comuni del Veneto, facessero altrettanto, sono quasi 600 i comuni del Veneto, se ciascuno ne ospitasse 5 sarebbero 3.000, cioè molto di più di quelli presenti adesso. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.